conosco un solo modo per dirti come sono. Per questo faccio un disco. Se stono, riregistro. Resto sempre me stesso ed insisto. Prendo la mira e non sparo, io colpisco. La S, un po' troppo presente, sessibilo, spiacente. Prendimi come arrivo o come viene, piccola, prendilo bene. Il più delle volte uso il cervello, altre dovei seguire lui, quello. Sbaglierò, ne riderò, e ancor più volte fallirò. In me cerchi qualcosa di speciale, però anche qua stavolta ti è andata male. Ci sono basi che non dovrei usare, strofe che con altri avrei dovuto registrare. Pensi bene? Male. C'è chi sale, sale, qui si scende, verso l'inferno gente. Questo è il mio lungo viaggio, io ne sono ostaggio. Non ho più equipaggio, a zero tutto a maggio. Ho chiesto scusa in vano, con il cuore in mano. Non è servito a niente, nulla di strano. Tra news, beat, old school, in ogni traccia cambio il groove. A chi mi vuol tenere, io consiglio di sedere. Potevo presentarmi in maniera migliore, ma esco da un periodo senza onore. Siamo in volo del mezzo, io sono il motore. Buona permanenza, signori, signore.